Assault, Yoko Rocksteady, we are here. L'unica, che cazzo di onore, originale di Topamo, questa missione continua, vedi mo si fa questa rima, l'unica.